Radio 24 Reportage. Ritorno in Russia. Affari italiani oltre la crisi del rublo. Di Laura Bettini. In Italia è già primavera, ma a Mosca cade la neve il giorno dell'arrivo del ministro degli esteri Alfano, che come tradizione incontra la comunità imprenditoriale italiana nella preziosa Villa Berg, sede dell'ambasciata italiana. Lo aspettano poi gli incontri con il ministro omologo Lavrov e il vice premier Dvorkovic. Meno di 24 ore prima, qualche centinaio di persone è stato arrestato per avere manifestato senza autorizzazione nel corteo convocato dalla Fondazione contro la corruzione di Alexei Navalny. Egli stesso è finito in manette sotto le telecamere. Protesta Washington, protesta l'Europa, ma, ribatte il Cremlino, hanno infranto la legge. Abbiamo rispetto delle leggi russe, commenta Alfano, ma non possiamo condividere. Al di là del fatto contingente, comunque, prosegue parlando a Villa Berg, l'Italia considera la Russia un partner affidabilissimo nella lotta al terrorismo e nell'approvvigionamento energetico. Lo è stato in passato, negli anni più bui della guerra fredda, e lo è oggi. Dico questo perché dobbiamo storicamente contestualizzare il senso delle nostre relazioni con questo grande paese e al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli che per noi ci sono principi fondamentali che non possono essere transatti facilmente e sui quali non si può transigere facilmente, della ragione per la quale sono state organizzate delle sanzioni che non sono ovviamente solo italiane, ma che non hanno impedito al nostro sistema di impresa di essere presente in questo paese. Il riferimento è alle sanzioni ancora vigenti per l'irrisolta questione ucraina, che hanno interrotto 3 anni fa un crescendo di cooperazione economica e commerciale tra la Russia e l'Occidente, diciamo così. Ma come dice il ministro, la vita va avanti e a Mosca presto arriveranno sia il presidente Mattarella che il premier Gentiloni. E pensando alle imprese, l'ambasciatore Cesare Maria Ragaglini rincara. Io personalmente e fermamente ritengo che le sanzioni non possono essere un alibi per nessuno, per non lavorare in Russia, per non valutare gli investimenti e per non investire. Certamente il giorno che saranno rimosse sarà molto più semplice, ma è anche vero che assistiamo oggi e anche nel recente passato a investimenti di aziende italiane in Russia, quindi significa che si può fare. Assistiamo soprattutto purtroppo a investimenti di tante aziende di altri paesi, a cominciare dalla Germania e dalla Francia, e adesso stanno arrivando in forza anche gli americani. Quindi se non cominciamo a muoverci con grande rapidità rischiamo di aver vanificato almeno in parte tutto il grande lavoro di carattere politico che è stato fatto proprio per creare questo quadro di riferimento favorevole, in particolare proprio per le aziende. A entrambi è noto che in quelle stesse ore, a un centinaio di chilometri da Mosca, la Laminam di Fiorano Modenese sta inaugurando in grande stile un nuovo stabilimento produttivo di lastre ceramiche. A project that transforms technology into perfection. Quella di Laminam è una produzione particolare, con lastre di grande formato e basso spessore, 3 metri per 1 di dimensione e 3 mm di spessore, il cui trasporto per migliaia di chilometri diventa antieconomico. Per questo Franco Stefani, presidente del gruppo System, di cui Laminam fa parte, alla fine ha scelto di aprire in Russia il suo terzo stabilimento produttivo, con un investimento che a fine lavori arriverà a 40 milioni di euro. La ceramica non può fare il giro del mondo, la ceramica bisogna produrla là dove la si consuma. Una città da 15 milioni di abitanti è uno stato importante, in espansione, ricca e ha bisogno di materiali per architettura, materiali moderni, cose che noi vogliamo proporre a questo paese. Questo stabilimento, se ho ben capito, ha cominciato a essere costruito un anno fa? Questo è partito 3 anni fa come base di stabilimento, ha avuto un momento d'arresto, abbiamo preso la maggioranza e l'abbiamo completato. C'è stata una comunità disposta a mettere in campo tutti i servizi e tutto quello che potevano fare. Il governatore mi ha ospitato e ha fatto di tutto perché questo avvenisse. Investo sull'ideale. Questo è ancora una volta il mio ideale nel fare un prodotto, e il prodotto vincerà sulle sanzioni. Conosce la Russia da 20 anni, Stefani, e da molto tempo il suo socio di minoranza in Laminam Rus, l'imprenditore russo Ismail Timirovich Akhmetov, un uomo molto fiducioso nel futuro. Io sono ottimista, dice, sono convinto che tra poco saranno abolite le sanzioni, con l'Italia siamo sempre stati amici, lo ritorneremo con l'Europa e con gli Stati Uniti. Questo, aggiunge, è il momento migliore per investire. Lo stabilimento si trova nella Oblast di Kaluga, una regione che ha già attratto molti imprenditori stranieri, ricorda Rosario Alessandrello, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa. Più che parlare di distretti in Russia, si può parlare di una grande conglomerata che attorno a sé incomincia ad attirare tutta la componentistica dell'agglomerato. Per esempio, nel caso di una facile che ha iniziato per prima è stata Lipsk, che è venuto, che allora Merlone ha fatto gli elettrodomestici, e molte delle ditte che fornivano la componentistica degli elettrodomestici in Italia nelle Marche si sono installate a Lipsk. Lo stesso discorso dell'automobile a Kaluga che stiamo dicendo. In più, siccome Kaluga, il governatore di Kaluga è stato molto in gamba, ha creato un parco perché i parchi industriali godono di tutta una serie di privilegi, incominciano a dargli di far pagare le tasse dopo un certo numero di anni, incominciano a fargli una serie di agevolazioni da rendere molto attrattivo l'investimento. L'aspetto della fiscalità lo riprendiamo con Pierpaolo Celeste, direttore dell'agenzia ICE di Mosca. Lo incontriamo al Batimat, la principale fiera in Russia proprio per il settore ceramica. Allora, innanzitutto ci sono programmi personalizzati in ogni regione, quindi molto sensibili all'occupazione, anche se l'occupazione è la disoccupazione è un tasso molto basso. Però ovviamente la crescita anche del tessuto sociale è importantissima, le regioni mettono a disposizione terra, mettono a disposizione allacci gratuiti, mettono a disposizione il fee molto bassi in termini di tasse sui redditi, si possono riesportare i profitti con grande facilità, ma soprattutto c'è una grande disponibilità al dialogo, per cui qualsiasi cosa da me in questo momento non elencata può essere discussa nel momento in cui un'azienda viene e vede l'investimento. 3 anni fa, senza le sanzioni, col prezzo del petrolio alto e il rublo forte, le ceramiche italiane viaggiavano a gonfie vele. Oggi le cose sono cambiate, anche se non manca il lavoro agli imprenditori che hanno investito in Russia. Armando Cafiero, direttore generale di Confindustria Ceramica. Abbiamo due situazioni storiche, l'Amarazzi e l'Italon, che sono 10 anni, proprio ieri ha celebrato il suo decennale di investimenti in Russia, a cui si è aggiunto ovviamente adesso l'investimento importante della Laminam. Queste sono operazioni di vera internazionalizzazione, come le nostre aziende hanno fatto in altri importanti mercati a livello internazionale, nel senso che sono presenze che si aggiungono alla nostra attività di export per servire meglio quelli che sono i nostri principali mercati di esportazione. E quindi magari recuperare, sto pensando anche rispetto a questi dati non positivi che avete raccolto negli ultimi anni, perché diminuiscono i volumi, diminuiscono anche i ricavi poi alla fine. Assolutamente, nel periodo precedente questa crisi del mercato russo, che è dato ormai alcuni anni, eravamo arrivati ad esportare più di 5 milioni di metri quadrati con un prezzo medio intorno ai 25 euro, che è ben superiore al prezzo medio a cui vendiamo a livello internazionale, considerando anche che il prodotto italiano ha un prezzo medio che è il doppio di quello di tutti i concorrenti mondiali. La crisi del mercato russo, soprattutto la svalutazione del rublo, ha visto crollare i metri quadrati esportati a circa il 50% del periodo pre-crisi, il dato dell'ultimo anno è di esportazione di circa 3 milioni di metri quadrati. Tra sprazzi di sole e bufere di neve, quindi, gli italiani di Russia resistono. Della patria lamentano il sostegno intermittente e non di rado le scelte politiche, ma non ammainano le vele. Anzi,